Eccoci qua. Ciao a tutti. Eccoci ritrovati all'ultimo. Mi sono accorta anche che c'erano tutti i volumi sbagliati. Hai visto che figo? Vabbè. Vabbè, ma d'altra parte siamo tornati alle vacanze e quindi, come quando si torna alle vacanze, è tutto in disordine, è tutto messo male. Come se invece prima. Invece prima era un paradiso. Detto così, sembra che prima era in ordine, ma. No. Sì, siamo tornate. Il gatto è tornato nel sacco. Purtroppo. Per lui. Eh sì, e quindi vabbè, in realtà non vi abbiamo lasciato solo soli no, tantissimo perché abbiamo. Non vi siete neanche accorti. Ma no, ma infatti eravamo, secondo me, praticamente le uniche che continuavano a trasmettere. Secchione come al solito. Sì, un'estate inutile, cioè, tanto chi ci va al mare? No, vabbè. E quindi abbiamo, vi abbiamo un po' fatto compagnia quest'estate per chi se l'è perso con un po' di concerti, avevamo un po' il tempo finalmente per farvi ascoltare delle cose con più calma, quindi poco parlato e molto molta musica. Poco parlato e molto ascoltato. È vero. Io me lo rivendico. Lapsus. E oggi siamo tornati. Che è domenica 23, se non mi sbaglio. Penso di sì. Domenica 23 settembre. Esatto. In direttissima con una, così, una puntata su un autore poco noto ai più, in realtà solo appunto molto noto per un pezzo in particolare, un altro di quelli della banda del pezzo usato e strariusato fino alla morte, e, che è Grieg, io almeno lo chiamo così, non so se si pronuncia in un altro modo. Anch'io lo chiamo così, ma non mica ho idea di cosa dico. E Edward Hagerup Grieg, così per noi Grieg e basta, è appunto stato un noto compositore e pianista norvegese, e qui la faccenda si fa interessante perché in realtà non finora, a parte, non l'avevamo considerato molto, e in generale appunto non è che la Norvegia abbia questa enorme tradizione così di musicisti notissimi, poi magari viene fuori che uno ha le origini norvegesi, però insomma in generale, per cui ecco, mi sembrava interessante proporre quest'autore che finora magari abbiamo incontrato un po' così di striscia, però non avevamo mai parlato, e che chiaramente tutti conoscono per il celeberrimo pezzo di Il Mattino, che è uno di quei pezzi che quando faremo la puntata i pezzi che ci sono venuti, che ci hanno fatto venire a noia della musica abusata, quello sì. Ci sarà sicuramente, perché è stato usato, riusato, insomma, in tutte le pubblicità, film, vari, non so, stacchetti su YouTube. Sì, quando c'è qualcuno che si deve svegliare, comunque c'è sì, quello. Ci schiantano quello. Sì, o una marcetta oppure esatto. Quello. Esatto. Per cui, in realtà, insomma, come poi scoprirete in questa puntata, lui è autore di molto altro, ed è un autore molto interessante proprio perché durante la sua carriera, in realtà, fece un lavoro di riscoperta delle origini della musica tradizionale norvegese in generale, insomma, nordica, e come molti musicisti della sua epoca, appunto, riprese, ripartì e studiò le tradizioni folcloristiche, musicali, in maniera proprio così antropologica, in un certo senso, in un momento antropologo musicale. Sì, etnomusicale, anche sì. Anche perché è in un momento effettivamente in cui nell'Ottocento tutti i più importanti musicisti del momento erano tedeschi, o comunque si parlava solo di musica tedesca. E insomma, lui sì, non è che non ne subiva il fascino, no, tutt'altro. Anzi, sì, partì anche fondamentalmente da quello, insomma, dalla partenza. Lui nasce proprio vedremo appunto dal sinfonismo europeo, porto nord europeo, quello classico, per poi però riscoprire queste radici norvegesi. E infatti, specifiche. È un po' questo merito fondamentale. Sì, che come in realtà poi appunto il romanticismo, post-romanticismo, appunto ha un po' questa vena, avendo la vena nazionalista in senso, non come lo si intende magari politico, però nazionalista in senso dell'artista che va un po' a riscoprire, no? Le radici. Lui avrà appunto rimarrà appunto folgorato da Wagner proprio perché è un po' il capostipite di quella scuola che va a riscoprire le radici proprio musicali e quindi anche storiche del proprio paese, in una storia della musica era stata fondamentalmente dominata, no? Dalla musica francese, dalla musica italiana, e attratti da quella appunto della scuola viennese, eccetera. Però lui rientra proprio in questa corrente appunto di artisti che vanno a, come abbiamo già visto, moltissimi dai russi, a, insomma, che vanno a riscoprire proprio le radici finlandesi sì, della musica popolare del proprio paese, e la riutilizzano, la trasformano e la rielaborano. Appunto, come compositore, si diceva, prende un po' le mosse da quella che era la tradizione musicale ottocentesca tedesca, che tuttavia poi abbandona per appunto tornare in patria, insomma, nella sua patria natale, e a un genere più, diciamo, aperto alle suggestioni del folklore nordico, all'irismo libero da costrizioni formali e all'intimismo più raffinato di piccoli pezzi e in genere, insomma, di pezzi di musica da camera, insomma, diciamo, qui scrivono, leggevo da salotto, ma insomma, in sì. Questo senso, quindi la parte più migliore, forse la più nota della sua produzione, va un po' ricercata appunto in questo repertorio un po' pianistico, no? Di lavori che sentiremo anche, di pezzi per pianoforte, di pezzi lirici, piccole ballate, romanze e anche in molte pagine, molte partiture con la componente della vocale proprio. Quindi di tutto quello che comporta appunto l'introduzione proprio anche della voce, che non è prettamente lirica, magari opera lirica, però sono pezzi. Lieder, canzoni, esatto, songs. Canzone, esatto, con la parte vocale. Diciamo che appunto lui rimane famoso per questo pezzo del mattino, ma che è abbastanza indicativo un po' del suo stile, come vedremo, perché è appunto molto così, molto naif, molto pittorico, no? Questo senso molto dell'atmosfera quasi naturalistico, no? Proprio... anche un po' incantata, sì, sì. Questo lui descrivere la realtà come qualcosa di poi alla fine incantato, magico. Lui amava moltissimo infatti Tchaikovsky, anche aveva questo grande amore per Tchaikovsky, non a caso, perché insomma questo senso del, no, un po' del fantastico, del che è, poi in realtà appunto è legato alla realtà di tutti i giorni, però magari attraverso un lirismo, no, un po' naif anche volendo, cioè proprio questa componente sua. Sì, io penso sia poi una delle caratteristiche più interessanti, cioè il saper descrivere la realtà come qualcosa di invece molto poco reale, cioè, o perlomeno molto poco pragmatico, molto poco materialista. Sì, che è tipicamente un po' nord europeo. Sì, no? Nord. Sì, nord, perché quello in realtà lassù, quello tedesco è molto più pragmatico come approccio. Tra il nord europeo, quello proprio nord alto, quello dei folletti, ce l'ha un po' questa componente, un po' appunto, un po' anche chiaramente influenzata dal paesaggio, influenzata da una vita magari completamente, ecco, completamente diversa da quella che poteva essere quella magari più del sud dell'Europa. Perché c'erano pochi umani, secondo me. Più cavalli e pochi umani. Sì, cioè, comunque spazio. Se te incontri le renne normalmente, esatto, più renne che uomini, che fai? Più fai una cosa... certo, è ovvio. Cioè, è chiaro che ti viene da fare una musica un po' così trasognata. È chiaro. Anch'io vorrei incontrare più renne persone. Sì, cioè, mi sembra un po' come la mucca nell'odio, no? Cioè, comunque a un certo punto vedi una renna, cioè, comunque... Esatto. Che scena è? Stupendo, va bene. Quindi direi questo: lui nasce appunto in Norvegia, a Bergen, nel 1843, quindi a metà dell'Ottocento, e è stato noto anche come pianista, proprio come esecutore, questo tipico dei musicisti romantici, abbiamo già detto perché, per come non vi rifaccio il pippone, considerato ovviamente uno dei più grandi compositori norvegesi, non che ci sia appunto tutta questa guerra, proprio perché non ce n'è tantissimi, è conosciuto appunto in particolare per le musiche di scena, perché dovete sapere che in realtà il mattino è parte di musiche di scena per una pièce di Ibsen, e poi ne parleremo di questo incontro con Ibsen, il Peer Gynt. E poi per concerto pianoforte la minore, appunto pezzi lirici, come dicevamo. Lui era in realtà norvegese per parte di madre, ma di lontane origini scozzesi da parte del padre, e fu in realtà ebbe la fortuna di crescere in una famiglia che si poteva permettere di far studiare i figli e così di educarli alla musica. Non a caso sono, insomma, molti dei figli della famiglia divennero chi appunto musicisti, il fratello è una divenne insomma uno dei più grandi critici musicali norvegesi, quindi anche la sorella era una cantante lirica, quindi, insomma, ecco, sì, tra l'altro veniva da questo milieu. Andò a studiare al conservatorio di Lipsia, esatto, ma non trovandosi niente affatto bene, come spesso no. capita, i conservatori sono fonte di grossa delusione, esatto, benché se la tirino tantissimo, in realtà non c'è niente di sì. astio personale in tutto ciò. No, no, nessun riferimento, ci mancherà. Però in realtà invece molto spesso appunto deludono e quindi lui non si era trovato per niente bene. Soprattutto anzi. Le menti più libere, sì, appunto lui finì... alla fine, insomma, in realtà iniziò al conservatorio di Lipsia su consiglio di questo noto violinista, il più famoso violinista dell'epoca, che era appunto imparentato con la sua famiglia, e appunto lo introdusse e lo fece studiare al conservatorio, dove, come diceva Mari, non si trovò bene e anzi si dichiarò sempre che non aveva trovato, appunto, non era riuscita a soddisfare le sue aspettative, e soprattutto per quanto riguarda l'imparare l'orchestrazione, quindi lo studio dell'orchestrazione. Il soggiorno nella città di Lipsia, però ovviamente all'epoca era una grande città, offrì comunque la preziosa opportunità di ascoltare molta produzione musicale dell'Ottocento, sia da camera che sinfonica, che ovviamente lo influenzò nella sua carriera. Dopodiché appunto la sua carriera proseguì in città più grandi come Copenaghen eccetera, e soprattutto nel periodo di Copenaghen lui fece conoscenza con vari compositori danesi dell'epoca, tra cui Hartmann, e un compositore norvegese suo coetaneo, tale Nordraak, che purtroppo morì prematuramente, ma ebbe su di lui quel merito di risvegliare appunto l'interesse, la consapevolezza per la musica della sua radice, quindi scavalcare un po' l'influenza tedesca che ovviamente c'era per lui, però e lui appunto tra l'altro dedicò poi a questo musicista una nota, Marcia Funebre. Dopo un lungo e classico un po' viaggio educativo in Italia, dove tra gli altri incontrò Ibsen, tra l'altro appunto per cui poi comporrà musiche per le opere, tornò insomma nel nord Europa e in generale insomma trascorse il resto della sua carriera esibendosi così in Europa, in Nord Europa in particolare, e scrivendo tantissimi tipi di composizione, tra cui appunto concerti per pianoforte, di cui appunto Concerto per pianoforte e orchestra in La minore rimane una delle sue composizioni più note e sicuramente più impegnative, visto che poi appunto si rifugerà un po' nelle composizioni più brevi, per cui ecco. Più belle secondo me. Forse più belle, sì. Vabbè. Probabilmente era proprio più dotato. A mio gusto. Così nel dare l'impressione più che nella grande. Sì. E appunto addirittura nell'autunno del 1869 riceve dallo Stato norvegese una borsa di studio per recarsi in Italia e perfezionarsi con Franz Liszt, quindi niente po' di meno che. E il musicista ungherese aveva già intuito che il talento di Grieg era notevole, e dopo che aveva letto alcune sue composizioni, quindi Liszt lo ammirava già. Di ritorno appunto a Oslo, dopo questa parentesi italiana, si cominciò a cimentarsi col teatro musicale, come dicevo, componendo varie musiche di scena e in particolare quelle per il Peer Gynt di Ibsen, che rimangono appunto tra le sue composizioni più famose. Io inizierei forse sì, quasi a... e da qui infatti si potrebbe far sentire il suo pezzo più sì. celeberrimo. Io però, mozione, io volevo proporre una versione completamente diversa, nel senso che siccome appunto si tratta di musica abusata e appena sentirete il motivetto fondamentale lo riconoscerete, non avrete dubbi, direte «Ah, ma quella era!» E allora, per evitare di farvi sentire la solita versione, ho scovato una versione completamente bizzarra e diversa, che è la versione di Duke Ellington, che secondo me vale la pena, e quindi vi farei sentire questa invece di dell'originale. Esatto, questa qui è la versione quindi di Duke Ellington, quindi diciamo portata parecchio in avanti. Morning Mood chiamata. E però che è poi il punto di rifacimento del pezzo. Questo pezzo appunto del mattino è tratto dalle musiche di scena del Peer Gynt, da cui Grieg aveva ricavato appunto due suite orchestrali formate ciascuna da quattro brani, tra cui questa, destinate poi a raggiungere una notevole popolarità appunto come estratti dalle musiche di scena, che sono poi rimaste famose come singoli, si direbbe oggi. E questo è. Eccola qua, sentiamola. Mm-hmm. Ecco, un po' è riconoscibile. Molto bellina questa versione, piace molto. Bella, vero? Non l'avevo mai sentita, guarda. No, in realtà neanche io, un po' riconoscibile, ma neanche troppo, eh. Cioè, forse in realtà si riconosceva benissimo. Beh sì, il tema era proprio bellino, fatto con il sassofono. Ci sapeva fare sto ragazzo. Studio Kellington, che gli vuoi fare? Il Duca. Sì, quindi, ecco, questo era appunto il pezzo più noto, che veramente lo potrebbero fare anche col rumore, non so, del trattore, si riconoscerebbe. E c'è da dire che appunto, e qui io gioisco, perché nell'agosto del 1876 Grieg si reca a Bayreuth, non sto a dire, se non sapete cosa c'è a Bayreuth, vado a casa. Che brava che sai leggere questa cosa. Beh, solo perché, perché c'era lui. Sì, c'era lui. Per assistere alla prima assoluta, capito? Cioè roba che io mi sarei tagliata un braccio, per dire, della tetralogia di Wagner. Quindi lui rimane folgorato appunto da questa visione musicale e dal compimento poi, perché appunto Wagner morirà poco dopo e questa era la... proprio il culmine, no? Il teatro che era stato voluto da lui, costruito come lui voleva, e quindi dove l'arte di Wagner si poteva esprimere nel migliore dei modi. E quindi il nostro Grieg rimane folgorato da questa visione, e in questi anni appunto la sua attività verrà influenzata appunto da questa visione wagneriana del ritorno alle origini musicali, e tutto il resto che abbiamo detto 7000 volte. In realtà appunto questo è il periodo in cui Grieg riduce un po' sia la sua attività come concertista, sia la sua produzione, a causa purtroppo dell'acutizzarsi di una malattia polmonare che lo affliggeva da tempo. Nel contempo la sua fama però era giunta al culmine, e il compositore appunto aveva ormai scelto quella che sarà appunto la sua strada, di sicuro, insomma, nella seconda parte della sua carriera, della scrittura musicale più minuta, più nella forma di foglio d'album e di lead, come si diceva. Quindi negli ultimi anni la sua salute così mostra segni di un rapido peggioramento. Ma ancora nel 1907, che è l'anno della sua morte, Grieg si esibisce in concerto in Germania e in Russia. Al funerale di Grieg parteciparono addirittura 40.000 persone e fu eseguita la marcia funebre di Chopin. Grieg e la moglie sono seppelliti entrambi in una cripta inaccessibile ricavata da una parete rocciosa che è posta sulla collina della loro casa di Trollhagen, che scende appunto verso il mare, e qui anche così un po' in un... Così. Che bella questa scelta. Sì, tra l'altro ho visto la foto, è bellissima, c'è tutta questa appunto tomba ricavata dalla roccia, la collina, che così denota, forse ancora una volta fa capire, no, come questo autore sia legato proprio alla propria terra, a questa immagine, immaginario un po' fiabesco, un po' lirico. Quindi questo è, in molto molto breve, la vita e appunto la carriera di Grieg, e ci andiamo ad ascoltare per dunque un altro pezzo. Sì, questo è un po' più lungo, decisamente, dura circa 11 minuti ed è Poetic Tone Pictures in inglese, ovvero i quadri poetici, l'opera 3 in realtà, che sono, oddio non mi ricordo già più, mi sembra 6 movimenti, è composto da 6 movimenti, e noi ce ne andiamo a sentire tutti. Nulla, io li butterei lì proprio così. La registrazione che ci andiamo ad ascoltare è stata eseguita nell'Unione Sovietica da Maria Greenberg, una pianista molto nota e molto molto valente, ecco, e quindi io mi ascolterei questa registrazione un po' datata, un po' vecchiotta, e quindi bellissima, lo sentirete con tutti gli sfrigoli del caso, dei vinili, di tutte le registrazioni d'epoca. Quadri poetici, opera 3 del 1864. Thank you. Thank you. Eccoci qua, e questo era appunto i quadri poetici di Grieg, appunto, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso. Stiamo parlando di Grieg, musicista norvegese della metà dell'Ottocento, e abbiamo appunto detto che è noto soprattutto per il suo pezzo del mattino che abbiamo fatto già ascoltare, noto e stranoto ai più, ma abbiamo scoperto appunto che in realtà ha una produzione molto vasta, soprattutto di opere brevi, appunto musica per pianoforte, per pianoforte a quattro mani, musica per orchestra e strumento solista, molti pezzi di musica da camera, produzioni per il teatro e musica vocale. Quindi abbiamo appunto scoperto che ha una produzione veramente vasta e che va molto al di là di questo suo pezzo per cui è rimasto poi noto e notissimo, che è quello del il mattino, che in realtà fa parte della musica di scena di una opera di Ibsen, il Peer Gynt di Ibsen. Quindi dove eravamo rimasti? Appunto, lui muore nel 1907, ma appunto il suo stile musicale in realtà influenza poi tanta della musica anche del primo Novecento. Diciamo che Grieg è sempre inserito, no? Parlando del suo stile musicale, viene sempre storiograficamente inserito in quella categoria dei musicisti delle scuole nazionali, proprio perché appunto per questo suo interessamento e studio della musica popolare e folcloristica norvegese della sua terra. In realtà appunto si può parlare così di si può paragonare la musica di Grieg a quella che viene definita un po' l'arte naif, no? Un po' questo senso della freschezza, della leggerezza, dell'ingenuità, dell'incapacità di rimanere magari costretto in certe forme sinfoniche più monumentali, più estese, come quelle appunto utilizzate da altri suoi contemporanei, e invece di questo amore che lui ha, di questa capacità di restituire con delle piccole miniature degli affreschi poetici. Cosa che poi a me mi ha sempre stupito, il fatto che tutto ciò venga definito ingenuo, quando secondo me ingenuo è assolutamente, sì, cioè, tutt'altro. Esatto, invece è vero che si contrappone magari a una visione pesante. Sì, forse in questo senso gli storici, i critici usano l'aggettivo ingenuo, ma anche naif viene sempre usato come dispregiativo. Sì, come se fossi scemo. Esatto, in realtà appunto è certo che se scrivi Lieder, poi c'è Wagner e Schumann, è chiaro che ti sembri magari, però sì, perché c'è sempre questa cosa che pesante è serio ed è importante, e leggero invece insomma, come ben sappiamo, è molto più difficile essere appunto così freschi e così in equilibrio magari su delle note più meno pesanti, e comunque non perdere la profondità, che comunque appunto non gli manca, non viene a mancare in questo autore. Diciamo che appunto questa insofferenza magari alle regole musicali, no? Un po' appunto a queste forme un po' più monumentali che così che andavano nell'estetica musicale del tempo, gli ha un po' attribuito, gli ha fatto avere un po' questa etichetta così. E appunto lui appunto sceglie infatti non a caso certe forme più piccole, appunto più miniaturistiche di restituzione della musica, e appunto e rifuggerà le grandi forme dedicandosi con gli anni sempre più esclusivamente a bozzetti lirici. A indicare a Grieg appunto la via della insomma sulla formazione del proprio stile fu senz'altro la lingua musicale del folklore norvegese, prima quasi dimenticato inizialmente negli anni della sua formazione e dei suoi studi, e poi riconquistato anche, come dicevamo, grazie a questo personaggio, questo Nordrak, questo musicista che lo influenzerà molto. In questo senso, la, appunto, la, così, la riconoscibilità di questo stile, del suo stile, contribuì in modo significativo al successo della, della sua musica, quindi effettivamente gli porta anche successo questa scelta. Mentre, appunto, finché era ancora in vita, diciamo, gode anche dell'ammirazione di grandi nomi, tra cui Tchaikovsky e Verdi, e abbiamo appunto detto dell'incontro con Liszt, che lo, con cui addirittura collabora, ma in generale, proprio per questa sua così formazione e dedizione alla musica popolare, fu un po' così, non fu molto considerato nel, soprattutto nel, nell'inizio del Novecento, dai musicisti dell'inizio del Novecento. Anche adesso, in realtà. E ancora, appunto, non è uno dei più noti. Tuttavia, invece, appunto, come dicevo, incontestabile che Grieg dette un contributo significativo al, al processo di allargamento del sistema tonale, che invece sarà fondamentale negli studi della prima metà del Novecento. E la sua, leggevo appunto, la sua scrittura armonica assolta e tendenzialmente paratattica sviluppa elementi propri della musica tradizionale norvegese e al contempo converge in modo sorprendente verso l'esperienza condotta da autori contemporanei quali Dvorak, Bruckner e Bizet. Quindi, insomma, cioè, l'aggettivo paratattico comunque era tantissimo che avrei voluto dirlo, sì. Ma paratassi che ne pensi? Sembra una malattia, però sì. È venuta la paratassi. Quindi in realtà è accostato e influenzerà poi grandi nomi, non a caso Dvorak e Bizet, insomma, sono autori che appunto includono nella propria formazione musicale tantissima musica tradizionale popolare del loro paese d'origine, non è un caso. Grieg fu peraltro consapevole di collocarsi un po' alla periferia della musica, della vita musicale europea, quindi era un po' un autore di nicchia proprio durante la sua carriera. E realizzò in realtà appunto i suoi lavori migliori tutte le volte che seppe accettare pienamente questa dimensione culturale, al caso di molti pezzi lirici per pianoforte, di alcuni numeri appunto del Peer Gynt, tra cui il Mattino e la, o della Suite Holberg, che anche questa è abbastanza nota, in stile antico, dove al sentimento di isolamento geografico subentra quello di una distanza storica rispetto magari ai suoi contemporanei. Quindi direi che possiamo proseguire con un ascolto. Sì, abbiamo soltanto due ascolti che ci separano dalla fine della nostra trasmissione e il primo che ci ascoltiamo, il primo di questi due, sono le danze norvegesi, l'opera 35, mi sto sbagliando, no? Le, 35, credo sì. Che sì, questa volta brano orchestrale, quindi insomma non solo piano, ma cioè scusate, sì, sempre piano ma per quattro mani, quindi un pochino insolito, un po' più, un bel po' più di note, ecco, quantomeno. E quindi opera 35, il primo movimento. Musica per pianoforte a quattro mani. Infatti, sì, primo movimento soltanto, ci andiamo ad ascoltare perché sennò non ce la facevamo con i tempi, quindi bah, solo questo. Thank you. Beh, è qui era quando aveva sentito Wagner. Orchestrato, era orchestrato. Era rimasto sotto da Wagner. Bello, era super. Era bello, ma infatti c'è questo sottovalutatissimo Grieg, veramente. Io me lo rivendico, mi piace. Ma non da noi che siamo underground. No, tutti, viva gli underdog, sempre. La fuga del gatto è sempre più underground. Esatto. E quindi, come dicevamo, appunto, il sottovalutatissimo così Grieg in realtà riserva grandi sorprese, e anche in questo pezzo, che è più appunto un po' più dal piglio, cioè il piglio un po' più concertistico, è comunque molto bello, no? Nonostante che non sia proprio insomma in questo stile così, che non era proprio suo. Che dire, appunto, nei momenti appunto meno felici il suo stile rivela la presenza di modelli un po' che lui non aveva appunto troppo metabolizzato, quelli un po' scolastici, non gli piaceva, non gli piacevano tanto. Qui cita questo critico, cita appunto il concerto per pianoforte e orchestra o quelli delle partiture wagneriane. Però in realtà appunto quando questo autore riesce a emanciparsi appunto da queste forme che magari non gli erano tanto congeniali, compose in realtà appunto bellissimi lavori, e che hanno, insomma, niente hanno da invidiare ai suoi contemporanei, a Dvorak, appunto a Bizet o altri. Però appunto soffrì un po' così di essere un po' misconosciuto, e probabilmente soffrì un po' appunto di essere diventato noto un po' per pochi pezzi, che come spesso succede nell'arte, no? Si diventa noti per magari uno o due opere e poi non si viene così, non si viene conosciuti o studiati per il resto, che invece nel caso di Grieg è un vastissimo repertorio molto bello e che magari ci capiterà anche di rincrociare. Penso anch'io. Nel tempo. E ci lasciamo con l'ultimo brano, non prima di avervi ricordato i nostri social Wombat, ovvero il sito wombat.noblogs.org, dove vi segnalo anche di dare un'occhiata al palinsesto, perché con la ripresa della programmazione stagionale consueta, non estiva appunto, ha subito un po' di modifiche, ci sono stati un po' di rimpasti, trasmissioni che scappano di qua, che vanno su e giù, gente nuove che fugge. Anche sì, nuove entrate. Questa settimana iniziano delle nuove perle, che quindi insomma già la scorsa ne sono iniziate altre, abbiamo avuto i contadini in mezzo a noi, insomma vi invito a guardare le novità sul palinsesto. Vi ricordo anche che altra novità post estiva, finalmente ci potete ascoltare di nuovo anche sulle onde mediocri, quindi non soltanto in streaming appunto dal sito wombat.noblogs.org, ma anche sulle onde mediocri, le AM1359, la frequenza da trovare se avete la fortuna di essere raggiunti dal nostro segnale. E la casella di posta, poi vi ricordo, posta@insiberia.net, dove vi invitiamo a scriverci. Beh, quest'anno ci siamo detti che vogliamo spingerla un po', sì, perché non sì. ci scrivete abbastanza. Non ci scrivete abbastanza. Sempre con i vostri telefonini stupidi a guardare quei social cosi. Sentiamo un po' abbandonati. Sì, dovete scriverci come si faceva ai bei tempi, con la penna d'oca, e così noi siamo contenti. Sì, per indicazioni, richieste e complimenti, soprattutto. Sì, il resto per la trasmissione. No, il resto non ci interessa. Il resto non ci interessa. Quindi, l'ultimo pezzo per voi con cui vi salutiamo è una canzone. Abbiamo detto che Grieg è stato anche un ottimo artefice di canzoni leader, songs quindi appunto, e noi ci ascoltiamo Solveigsong, tratta anche questo dal Peer Gynt, suite numero 2 e l'opera 23 numero 19 nel particolare, se proprio vogliamo dare le indicazioni di catalogo. E l'interprete in questo caso di questa canzone è Lucia Pop, che secondo me è molto molto pregevole, quindi mi andava proprio di sottolinearvela. Boh, io direi che abbiamo detto tutto. È tutto. Possiamo alla dare appuntamento puntata. Sì, a domenica prossima. E ci riascoltiamo quindi sempre domenica prossima intorno alle 18 con La fuga del gatto, sempre ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao. Ciao a tutti.